buona non si può trovare. Ora me come la chiama, tu troppo secco, troppo diacca, ma va se non me puse per gli un'annata, ma se io trovassi quella per me, chi la facesse divertir, e quando passa 40 anni, ti cangi per due e vent'anni, chi manna ci appaga e si stanca, una femmina buona non si può trovare. A good girl is hard to find, you always get the other kind. Just when you think you've got a gal, you turn around and find her messing around another guy. Then you rave, oh how you crave to see her in her grave. 'Cause if your gal is nice, take my advice, hug her in the morning, kiss her every night, give her lots of loving, treat her right. Because a good gal nowadays is hard to find. Una femmina buona non si può trovare, povera me come la giava, su troppo secco, troppo ghiatta, ma va se non me puse piglia un'annata, ma se io trovassi quella per me, chi la facesse divertir, e quando passa 40 anni, li cangi per due e vent'anni, i mannazzi appaga e si stanca, good girl nowadays, it's hard to find.